Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. Arriverà dalla Cina una batteria da 1000 km. CATL, il più grande produttore mondiale di batterie per l'automotive, sta lavorando infatti ad una nuova tecnologia che integra le celle della batteria con il telaio della vettura, eliminando gli involucri tradizionali e quindi riducendo l'ingombro. L'integrazione nel telaio consentirà di caricare più celle in un'auto e di estenderne quindi l'autonomia, anche a 1000 km se non oltre. Una tecnologia che una volta lanciata potrebbe rivoluzionare l'intera industria automobilistica. Volvo ha ambizioni 100% green. Il programma della casa svedese infatti è quello di offrire in gamma per il 2025 solo modelli elettrificati. Il 50% di auto elettriche e l'altro 50% di ibride. Il via a questa elettrificazione di massa sarà il lancio entro fine 2020 della XC40 Recharge, il primo modello 100% elettrico del costruttore di Göteborg, che inaugurerà anche un nuovo corso del design da estendere gradualmente alla gamma attuale. La Gran Bretagna accelera sulla guida autonoma. Il Ministero dei Trasporti britannico, attraverso il confronto con le realtà imprenditoriali locali, spinge sull'utilizzo del mantenimento di corsia automatico su strada. Una tecnologia che una volta introdotta, già nel 2021, stando alle intenzioni del governo, consentirebbe ai veicoli di circolare gestendo da sé sterzo, freni e acceleratore. Un grande passo avanti per il livello più avanzato di guida autonoma, visto che questa soluzione non implica nessun coinvolgimento se non la supervisione da parte del guidatore. Tesla studia un sistema antiabbandono per i più piccoli. L'azienda statunitense ha chiesto all'Autorità americana delle comunicazioni il nulla osta per la commercializzazione di dispositivi a corto raggio che rilevano il movimento. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei bambini evitando che vengano dimenticati in auto. Anche oltreoceano, infatti, è attualissimo il dibattito sull'adozione di questi dispositivi antiabbandono. E cambiamo decisamente argomento perché parliamo di usato, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, è un mercato da tenere d'occhio in questa situazione sicuramente particolare, un mercato del quale parliamo oggi in compagnia di Andrea Gaspari, che è il presidente di Assonauto. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a lei. Allora, cominciamo con il ricordare che cos'è Assonauto, un'associazione dei rivenditori auto nata 2 anni fa. Sì, Assonauto è stata fondata a giugno 2018. Come associazione rappresentativa per i rivenditori di autoveicoli usati su tutto il territorio nazionale. L'associazione svolge tutta una serie di attività dedicate al segmento, come dicevo prima, dei rivenditori multimarca, non concessionari, tutelando tutto quello che possono essere gli aspetti sia riguardanti il settore legislativo, sia tutto quello che riguarda la parte, diciamo, di tutela della categoria. Insomma, un'associazione di rappresentanza classica, tra virgolette. Un osservatorio sicuramente interessante per parlare di mercato dell'usato. Ecco, come sta andando questo mercato in quella che ormai consideriamo la fase 3 del lockdown, quindi con una semi-ripresa delle attività e forse anche delle vendite? Allora, guardi, dai dati di mercato che stiamo raccogliendo su tutta la nostra rete italiana, che oggi è presente in tutte le regioni, abbiamo notato che il mercato dell'usato sta soffrendo molto, diciamo, soprattutto su quello che sono i veicoli molto recenti. C'è movimentazione, quindi vendita di veicoli diciamo entro i 5.000 euro come fascia di prezzo, mentre invece per quanto riguarda le fasce un po' più elevate o comunque le macchine seminuove, pur essendo usate, c'è molta difficoltà sul territorio. D'altro canto, diciamo che anche c'è una preoccupazione che stiamo sentendo in questi periodi qua in diverse aree geografiche per quello che poi sarà il periodo post estivo. Certo. Questo perché in molte aree, anche quelle diciamo dove c'è un turismo abbastanza presente e vivono soprattutto anche tanto di turismo, come può essere la Sardegna o tante aree, sono molto preoccupati per quello che potrà succedere da ottobre in avanti. Ecco, voi come concessionari avete supportato forse il prezzo più alto di questo lockdown per il settore dell'automotive. I dealers, voglio dire, hanno praticamente paralizzato, bloccato le loro attività. Le aspettative per la ripresa autunnale, come ci ha appena detto, non sono rose. Come sta affrontando questo settore, quello dei concessionari, questo momento così difficile? Allora, io dico, in questo momento purtroppo siamo molto in difficoltà perché non ci sono aperture a livello diciamo di aiuti anche diretti alla categoria che sono stati richiesti più volte per cercare di rimovimentare un pochettino il mercato. Oggi tenga conto che il mercato dell'usato muove circa 6 milioni e mezzo di veicoli usati diciamo a pieno regime, quindi non parlando di quest'anno che purtroppo c'è col Covid. La problematica è che bisognerebbe fare un'attività, diciamo concentrando le forze su quello che è il parco circolante da sostituire, quindi quello ante Euro 5 che oggi in Italia conta circa 19 milioni di veicoli, che è quasi il 50% del parco circolante. Però purtroppo questo, come abbiamo fatto anche noi analisi, abbiamo creato sondaggi su consumatori, ci siamo confrontati anche con l'associazione dei consumatori, oggi l'utente medio che ha una vettura vetusta di 10 anni, Euro 3, Euro 4, non ha la capacità finanziaria di comprare certo un'auto nuova o comunque una vettura molto recente. E questa è una situazione che abbiamo denunciato più volte ai nostri microfoni. Siamo davanti ad un mercato stagnante perché ovviamente questi utenti non hanno le risorse per acquistare le nuove auto elettriche che hanno un costo tra l'altro decisamente più alto rispetto alla media e quindi siamo alla paralisi. Per quanto riguarda il nuovo, qualcuno già ipotizza scenari in cui acquisteremo auto solo online, i concessionari spariranno o comunque si ridurranno di molto di numero, scenari sicuramente molto lontani e anche discutibili secondo il mio punto di vista. Cosa succederà invece per l'usato, che invece è un mercato che richiede proprio un contatto fisico tra virgolette con il cliente? Ma il mercato dell'usato, tenga conto che oggi conta in Italia oltre 9.000 imprese, quindi è un mercato anche molto importante e soprattutto, come dicevo prima, a livello di numeri parliamo quasi di 5 milioni e mezzo di veicoli usati acquistati ogni anno. La proiezione diciamo di quello che vediamo in un prossimo futuro non è rosea, anche per un semplice motivo, perché l'usato è un prodotto che proviene dal nuovo. Quindi non essendoci ricambio sul nuovo non c'è ricambio sull'usato, mi sembra una conseguenza logica. Sì. Diciamo che è un ciclo, le vetture o comunque anche le vetture che provengono dal settore del noleggio a lungo termine, i cosiddetti rack dallo short term, diciamo che ci sono diversi segmenti dei quali il rivenditore acquista l'usato poi da rivendere. Purtroppo sono tutti i settori che in questo momento, causa crisi, sono in grave difficoltà. Infatti una delle paure che stiamo in questi giorni qua analizzando è anche quella dell'approvvigionamento del prodotto. Quanto prodotto si potrà avere a gennaio del prossimo anno? Perché chiaramente tenga conto che normalmente solo sul settore del noleggio a breve termine il ciclo sono 6 mesi per le costituzioni dei veicoli. In questo momento qua, essendo che c'è un calo vertiginoso in quel segmento, vorrà dire che fra 6 mesi ci sarà poco approvvigionamento di prodotto perché non ci sarà prodotto usato da acquistare. E questo qua lo stiamo analizzando anche in diversi paesi d'Europa, non solo in Italia. Ecco, infatti il quesito successivo era proprio questo. Tutto questo succede in Italia più o meno dal vostro osservatorio, come sta andando il resto d'Europa? È una situazione simile a quella italiana? simile, poi le dico purtroppo ci sono anche determinati prodotti che facciamo fatica a importare, perché una delle problematiche che stiamo affrontando con le istituzioni oggi è l'immatricolazione delle vetture provenienti dall'estero. Tenga presente che oggi per immatricolare una vettura che proviene da un paese dell'UE mediamente ci vogliono dai 45 ai 70 giorni. Questo qua è una problematica, perché un rivenditore che acquista delle vetture all'estero vuol dire mobilizzare capitali per 30-60 giorni, non è fattibile. In questa fase soprattutto. Insomma, un mercato da tenere assolutamente sotto osservazione. Noi continueremo a parlarvene nel corso delle prossime puntate. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Andrea Gaspari, presidente di Assonauto, con cui abbiamo parlato del mercato dei veicoli usati. Ci risentiamo per la seconda parte tra pochi minuti. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. In questi nostri spazi vi parliamo spesso di competizioni sportive, di rally, di ride, tutte gare che a volte non vengono organizzate per decretare un vincitore, il più veloce o il più preciso, ma per un puro scopo di beneficenza. È il caso della Race to Dakar, il primo charity rally, il primo rally per beneficenza che attraverserà l'Africa, che si terrà dal 28 dicembre del 2020 al 10 gennaio, un rally di cui parliamo in compagnia di uno dei suoi organizzatori, Davide Virardi. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a te Massimo e buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie della chiamata. Nella nostra trasmissione ci occupiamo spesso di rally, di competizioni, ma è la prima volta che ci occupiamo di un rally per beneficenza. Ecco, spiegaci un po' come è organizzata questa sorta di competizione. Come hai detto correttamente, un charity rally, un rally umanitario, quindi non è un rally competitivo, ma è un rally che attraversa le strade della vecchia Parigi-Dakar, quella storica di Terry Sabine, fino ad arrivare a Dakar, quindi da Tangeri. E perché per beneficenza? Perché i veicoli che i partecipanti utilizzano vengono lasciati in Senegal e in Gambia, che vengono lasciati alle ONG organizzatrici. Lasciati lì vengono utilizzati per i progetti di cooperazione delle ONG organizzatrici, perché il rally è organizzato dalla Onlus Tavolo 8 e da Onlus Italiana Bambini nel Deserto, che operano da oltre 20 anni in West Africa. E quindi è un rally non competitivo, quindi non si corre contro il tempo come nella Dakar o come i rally che l'hanno sostituita in Africa in questi anni, ma si va tutti insieme e si attraversano dei luoghi incredibili, perché uno dei motivi, oltre il fundraising e quindi la raccolta fondi attraverso le iscrizioni, attraverso i veicoli che vengono lasciati giù in cooperazione, e sono di qualsiasi genere, e lo scopo del rally è quello anche di far attraversare una strada importante che collega l'Africa nera all'Occidente, in senso contrario normalmente a quello, al senso in cui viene percorsa, per capire, per dare una nuova visione anche di un'Africa diversa. Quindi mi sembra di aver capito che questi veicoli vengono poi lasciati in Africa. Dove vanno a finire? La gran maggior parte nei progetti di cooperazione. Ti faccio degli esempi. Per esempio, noi abbiamo una cooperativa di donne che essica il mango in una regione che si chiama Casamas del Senegal. Quindi serve un mezzo di trasporto per le donne e un mezzo di trasporto per il mango, per la materia prima. Oppure possono essere orfanotrofi dove c'è bisogno di veicoli per spostarsi, oppure le moto vengono utilizzate in progetti che vedono, per esempio, come Garage Italia, un progetto di Ouagadougou in Burkina Faso della ONG Bambini nel Deserto. Quindi vengono sia riempiegate all'interno, hanno nuova vita, vengono riempiegate all'interno dei nostri progetti di cooperazione o messe sul mercato e messe a reddito. L'organizzazione di questa manifestazione è curata da due ONG. Quali sono i loro scopi? Stiamo parlando di due ONG italiane, una si chiama Tavolo 8, di cui ho l'onore di essere anche il presidente, e che opera da 20 anni in uno specifico, una parte del Senegal si chiama Casamance, e un altro ONG che è di Modena, che esiste da oltre un ventennio ed è molto conosciuta da chi fa i viaggi overland sia in fuoristrada che in moto, che si chiama Bambini nel deserto. E l'idea di un rally umanitario non è nostra, in realtà sono dei rally che esistono nel mondo anglosassone da molto tempo. L'abbiamo voluto declinare col nostro essere, il nostro modo di fare, quindi è diventato un grande raduno itinerante dove i partecipanti guidano questi veicoli che vanno dalle moto ai motocarri, alle ambulanze, alle autobotti, ai furgoni, alle autovetture con vecchie autovetture ma che hanno i comandi per i disabili, per cui una di queste autovetture è guidata da un disabile, verrà lasciata in Gambia, a Banjul, la capitale del Gambia, e verrà utilizzata da un disabile lì per cambiare la vita. E quindi ecco, sono le due ONG organizzatrici. Dicevamo, questo rally si svolgerà nel mese di dicembre, quando in particolare? Subito dopo le ferie di Natale, ovvero la partenza ufficiale è il 28 da vicino Tangeri e si raggiunge via strada dall'Italia il 26, quindi si parte dopo le ferie natalizie il 26 di dicembre, il rally termina al 10 di gennaio 2021 nella capitale del Gambia, che è un enclave dentro il Senegal, un piccolo stato ex coloniale inglese dentro il Senegal, nella capitale del Gambia, Banjul, il 10 di gennaio 2021. Quindi una competizione aperta a tutti, ad ogni genere di veicoli, dalla moto all'auto all'ambulanza, tutti i veicoli che, come abbiamo ascoltato, verranno poi reimpiegati in Africa. Bisogna però iscriversi e ci sono dei termini abbastanza vicini, parliamo di metà settembre, inizio ottobre, se non sbaglio. Esatto, perché il nostro è un'avventura, un rally a numero chiuso. Per quest'anno, l'edizione 1, vogliamo fare le cose per bene e il Covid non ha aiutato, per cui abbiamo deciso di chiudere l'iscrizione al 15 di settembre. Le candidature, la gente e le persone interessate si possono candidare attraverso il nostro sito rustdakar.org, rust2dakar.org, e dopo rispondono alcune domande. E se il loro profilo e le loro motivazioni, perché devi sapere, Massimo, che per noi è importante la motivazione, che è un gruppo di persone, ci sono amici, ci sono padri coi figli, ci sono ragazzi giovani, ci sono pensionati, c'è veramente tra i candidati di tutti, le motivazioni che possono spingere una persona a fare 4.000 chilometri per dare una mano a un ONG e per vedere un'Africa con occhi diversi. L'Africa del 50% della popolazione che ha meno di 25 anni, un paese giovane dove il PIL è in forte crescita in West Africa. E quindi il 15 di settembre si chiudono, anche se probabilmente le prorogheremo di qualche settimana per avere sempre più candidature, tra le quali poi sceglieremo i 25 team che parteciperanno al nostro rally. Ecco, fino ad oggi sono sicuramente già arrivate tante candidature. Qual è il profilo tipo dell'italiano che vuole affrontare questa avventura? Quello che diciamo noi è questo: è un rally per eroi ordinari, per persone che hanno forse sognato la Dakar o forse hanno sognato di fare un lungo viaggio nel deserto o nell'Africa nera, e che sono spinti da forti motivazioni nel capire, nel fare questa bellissima avventura, nel dormire nel deserto, nel stare una decina di giorni ad attraversare il Sahara e entrare poi nella savana, e che abbiano un minimo di capacità organizzative, perché devi sapere che ci sono dei punti di incontro durante il percorso, e tra questi punti di incontro, che si chiamano checkpoint, le persone sono libere di seguire il loro percorso. C'è un roadbook, la strada è fondamentalmente una sola, la traccia Rayen, che attraversa il Marocco e la Mauritania per arrivare in Senegal, ma quindi il candidato è una persona fortemente motivata che abbia un minimo di spirito di organizzazione. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Davide Virardi, uno degli organizzatori del Rust to Dakar, una competizione tra l'altro che noi seguiremo sicuramente con grande attenzione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. L'appuntamento invece con Strade e Motori torna la prossima settimana intorno alle 22 di sabato, come al solito. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.